24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Sai cosa? Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi, io scrivo Squinzi. Va bene. No, se non ciò che piatti, poi lo scrivo Squinzi. Vabbè, cari italiani, il Ciocapiatti è tornato, sono qui, sono Alessandro Milan e sono salvo. Per il momento la lettera a Squinzi non è ancora arrivata, almeno da Alberto Forchielli, così minacciava ieri, scrivo a Squinzi, io scrivo, mi lamento della tua trasmissione, Ciocapiatti, che non sei altro. Ebbene, siamo ancora qua, l'Italia è ancora qua, non si sa che ne sarà. Come usciremo noi di qua e via così, insomma, vabbè. Saluto Miriam Lucchetti, redazione, che oggi saltellava qua e là. Quando saltella ci sono dei problemi. E quindi, no, ma adesso tutto a posto, che abbiamo tante cose da dirvi. Ma andrà tutto a posto come al solito, anche perché c'è il nostro alpino Peter Bescapelli in regia, che controlla tutti i bottoni, tutti i cursori, tutti i mixer, e quindi è pronto ad alzare la serranda del nostro Parlamento. Buongiorno e ben ritrovati. Volentieri a tutti quanti. Come sempre a tutti quanti offre Nicole Minetti, Nicole Minetti. Quanti caffè ci avrà offerto finora? Mannaggia, ragazzi. Puoi neanche metterli più adesso come rimborso alla regione Lombardia, come attività istituzionale. Vabbè, insomma, voglio salutare, è mercoledì, la nostra coppia affiatata, Paola Saluzzi, buongiorno. Buongiorno, Ciocapiatti di tutta Italia, unitevi! Sono salvo, buongiorno. per ora, ma magari ha mandato una lettera non raccomandata, non un telegramma. Ma no, tutto al più ti mandano al Quirinale, anzi a Palazzo Chigi a coordinare il governo, guarda. A coordinare, sì. No, io ho Presidente del Consiglio, ecco, come devo dirla in altra maniera? Dilla come deve essere Presidente del Consiglio, io ci spero, e magari nella notte Napolitano ci ha pensato. Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair, buongiorno. Eccoci. Buongiorno direttore, qualcosa facciamo, una marcia. Dov'è la sede di Confindustria? La sede di Confindustria a Roma, però insomma possiamo andare tutti. No, beh, io faccio un appello, se riceve il Presidente Squinzi da Alberto Forchielli una lettera, non la apra, che sono brutte cose, non lasci perdere, non l'apra quella lettera, c'è l'antrace, non l'apre assolutamente. Allora, siamo qui per dire, siamo pronti, sì, siamo alle strette, oggi c'è la nomina, la nomina di Napolitano, l'incarico, e in pole position sono sempre loro, Enrico Letta e Giuliano Amato, Luca Dini, un bel ritorno. Giuliano Amato è il nome più gettonato oggi dai giornali, quasi certo per il Corriere. Quindi non sarà lui, non so. No, quindi dovrebbe essere lui, chi lo sa. Quindi come la prendiamo? Ma insomma, come dire, aria fresca. Aria fresca, sì, beh, certo, d'altronde voglio dire, è un po' di giorni che abbiamo notizie che ci proiettano verso il futuro, no? Esatto. No, poi dopo sono troppo irriverente, non lo so. Vogliamo far sentire subito di Amato sempre la mitica da Lilli Gruber, no? La questione delle pensioni, perché così vi voglio mettere di buon animo, Paola Saluzzi, voglio mettere di buon animo gli italiani, quando gli chiesero... Sì, delle... ma io poi ho una cosa molto ottimista da dire. Ah, bellissimo, quindi Paola Saluzzi fa da contraltare a me, io intanto vi getto nello sconforto con la famosa frase di Amato sulle sue pensioni. Io ho una pensione che al netto è di 11.000 e rotti euro, ai quali si somma la indennità parlamentare, che al netto sarà sui 5.000 e qualcosa. Lei è disposto a ridursela la pensione, ecco, a fare qualche sacrificio? Quando mi viene detto sei disposto a ridursela, francamente a ridurmela non capisco la domanda. Era così, Paola, così complicata questa domanda di Lilli Gruber, che sinceramente era difficile da capire. Non capisco la domanda quando mi chiedono. No, però se dovesse essere oggi il nome di Amato, piuttosto sì, che il nome di Letta, ma mi riferisco al nome di Amato, un nome molto stimato in Europa e nel mondo, e quindi questo vuol dire avere molti investimenti che tornano. Eccolo lì, perché vedete? Si fidano di nuovo di noi. Vedete? Eccola lì, Luca Dini, la donna che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno. È vero, però io ho capito anche la risposta alla Gruber. Cioè, bisogna, cioè, le cose che ormai si devono ridurre, cioè questa richiesta di autoriduzione è strana obiettivamente, cioè, o una cosa è stata meritata, è maturata ed è giusta, oppure non lo è, ma se non lo è lo deve decidere forse anche qualcun altro. Sì. Non si sa, lui prende 11.000 euro al mese più il vitalizio, però lui dice il vitalizio lo do in beneficenza, non può rinunciare al vitalizio da ex parlamentare, insomma fa una roba tipo 30.000 lordi che poi sono 16.000, 17.000. Ecco, in questo momento avere un presidente del Consiglio che prende 17.000 euro al mese di pensione, ma magari è il modo più demagogico per affrontare la questione, direttore? Beh, oddio, certo, capisco che a molti starà girando qualcosa, insomma, però obiettivamente la sua risposta io la capisco, nel senso che sì. Non è che si può singolarmente decidere che una persona, cioè, si autoriduce, sì, va bene, lo possono fare anche tutti. Sì, si può ridurre come categoria, diciamo, non è che Giuliano. È una persona che va affrontata. Sì, cioè, certo, non si può fare la decurtazione ad personam a Giuliano. Ma si fa la gara a chi si autoriduce di più. Insomma, sì. Comunque, Paola, ieri Giuliano Amato è stato intercettato dai giornalisti, ha fatto anche lo spiritoso su questa cosa del sentitelo ieri alla Normale di Pisa, quando una giornalista richiede qualcosa. No, nessuno mi ha telefonato, mi hai telefonato. No. Poi no, i telefoni qua non ricevono. Dobbiamo chiamarla Presidente del Consiglio? Io lo sono stato, in base alle regole italiane c'è un sempre, mi chiamano sempre Presidente, io mi riferisco al tennis club di Erbetelli. No, lei è rimasto famoso per questo prelievo sui concorrenti italiani. Basta, guardi, basta. Si potrebbe ripetere? Quanto c'ha lei in banca, mi dica. Io molto poco. Quanto c'ha lei in banca, Paola Saluzzi? Fa lo spiritoso, quanto c'ha lei in banca, eh? E chiede. Ma io invece mi concentrerei sul tennis club di Orbetello. Sì, di cui lui è presidente. Potremmo portare la Coppa Davis al tennis club di Orbetello. Sì, c'è la Coppa Davis. L'ha preso positiva stamattina, signori. Sì, l'ha preso positiva. No, non so che dirvi. Tra l'altro lui è un bravo tennista, eh? Ma è vero, è presidente del tennis club Orbetello, lo è sempre stato, no? Non lo so se lo è ancora, ma penso proprio di sì. Vabbè, comunque Giuliano Amato pare che sia lui, oppure Enrico Letta, mentre, attenzione, udite Matteo Renzi oggi sui giornali, è questa la dichiarazione. Matteo Renzi dice: mi ha fatto fuori Berlusconi, cioè tutti erano d'accordo. Pare che ieri, secondo il Corriere, Renzi abbia chiamato Berlusconi. Oh, Luca Dini c'ha il vizio, un po' di sentire intanto. Pare che abbia chiamato Berlusconi e Berlusconi gli ha detto, secondo il Corriere: sì, tu puoi essere Presidente del Consiglio, tranquillo. Poi ha messo giù, ha guardato i suoi, Berlusconi ha detto: non se ne parla proprio, Renzi Premier. Non lo so, è una ricostruzione plausibile che Berlusconi non voglia Renzi Premier? Ma non lo so, cioè certo molti speravano che andasse a finire così, cioè così, nel senso che fosse lui a essere incaricato. Io non lo escluderei ancora, perché poi secondo me Napolitano non... Insomma, è più libero nel decidere. Abbastanza. L'hanno chiamato e gli diceva pure: farabutti, disgraziati, e quel bravo. E quindi secondo me io penso che qualunque sia la decisione, Napolitano la prenda con grande libertà e autonomia, quindi non sarà perché Berlusconi ha posto il veto, non credo. Dovrebbe spiegare questo veto. Lo so, però poi il veto, se poi nominasse o desse l'incarico a un Renzi non in grado di fermare un governo per un veto poi di una parte politica che adesso si devono mettere d'accordo, non so, sarebbe l'ennesima bruciatura anche nel centro-sinistra. Intanto io continuo a dire, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane anche con voi, il clima un po' spaventa. No, Paola, il clima un po' spaventa. A Roma c'è un clima di tensione, soprattutto a Roma, ovviamente, dove sono concentrati. Venerdì scorso e sabato, per chi conosce Roma e conosce le viuzze di Roma, non che se una cosa fosse avvenuta a Tor Vergata, nella Tiana, dove c'è stato il Papa Wojtyła con tutti i ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù, sarebbe stato diverso. Però ecco, sentire gente che urlava: voi fermatevi da dentro al palazzo, noi li asserragliamo da fuori, e non era piacevole sentire una chiamata a tutti in piazza per un golpe che poi diventa un golpicchio, golbettino, golpettuccio, sì, rivisitato il giorno dopo, non fa piacere. Non fa piacere. No, ieri, ieri è andata di mezzo. Abbiamo tutti memoria per ricordarci cose pericolose. Ma no, ma assolutamente, il clima a me spaventa. C'è stata gli insulti a Franceschini, poi a Fassina. Ieri Rosy Bindi è rimasta in mezzo. E Rosy Bindi, sentite come ha reagito. Siete dei mascalzoni, avete rubato. Avete messo tutte le costanze della Fiat. Italia, mascalzoni. Siete dei mascalzoni, che se dimette? Se dimette che è Avete sentito? Io gli do un pugno a questo qua. Ma Rosy Bindi, ma per carità, non deve succedere mai, non succederà mai la violenza, eccetera. Ma come fai a dire gli do un pugno? Dai, Rosy Bindi, sei lì perché sei protetta dalle guardie del corpo, eccetera. Ma come gli do un pugno, Paola? Dai, io gli do un pugno a questo qua, Rosy Bindi. Ma no, abbiamo mai immaginato Rosy Bindi arrabbiata? Ho capito. Beh, voglio dire, meglio di no. No, ma in quello... secondo me si scatena. Sì. No, il problema l'hai detto benissimo, Alessandro. Il problema è che poi nervosismo scatena nervosismo e salta fuori il peggio. No, ma è chiaro. Perché mai uno desse un pugno, effettivamente, adesso non Rosy Bindi in particolare, questo sarebbe il primo segnale dell'arrembaggio. Allora, non bisogna arrivare a questo, non bisogna portare le persone né per scelte personali, politiche, e per attendismo, su sì, questo non c'è dubbio, a reazioni del genere, ma non vanno neanche aizzati. Aizzati, ma assolutamente aizzare, no, le persone, assolutamente, poi starsene comodamente a casa dire gli do un pugno con a fianco la scorta e i carabinieri, insomma, è abbastanza facile. Ma sentite anche la normale di Pisa, prima aveva fatto sentire Giuliana Amato, era col ministro Profumo e fuori c'erano degli studenti, per carità sono solo suoni di scontri, ma questa era, immaginate, la polizia da una parte e gli studenti che volevano incontrare Amato, volevano protestare contro il ministro Profumo, i tagli, insomma. E si sono fronteggiati così, è volata, rischiava di volare qualche manganellata, insomma. Luca Dini, il clima è questo, dovunque si va, dovunque c'è un'istituzione in questo momento, attenzione, c'è tensione, questo è il dato di fatto. Beh, l'Italia è così, voglio dire, è una terra di demagogia e di dove sono, cioè alla fine c'è sempre un po' quella tendenza piove governo ladro, e la cosa brutta è quando diventa indistinta, perché poi la cosa che a me dà fastidio è che sembra che sia tutto uguale, abbiano tutti le stesse colpe, siano tutti ladri, invece non è mai così, perché chiaramente anche lì dentro ci sono degnissime persone. Ed è fastidioso, e purtroppo questa cosa è stata ricercata e provocata. Assolutamente sì. No, certo, c'è da dire che veramente il clima tra Fassina, la contestazione a Fassina, Franceschini, Rosy Bindi è veramente, veramente dura. Quella sera per i Franceschini è stata una cosa, insomma, come per Fassina, insomma, inguardabile. Una persona sta cenando, sta mangiando, tu arrivi, pigli, insulti. E poi in mezzo vorrei ricordare che il cuscinetto è fatto di poliziotti, sì, è fatto no, di certo, gente, certo, di forze di polizia, tutte le forze di polizia, di gente che avrebbe anche qualcosa da dire e invece sta lì a prendersi o gli spintoni, chiaro, o gli sputi, o gli insulti. Sarebbe infatti interessante sapere cosa ne pensano in realtà, esatto. 24 mattino. Adesso hanno chiamato il badante, perciò d'ora in avanti, tutti zitti, tutti ubbidienti e silenzio. Pazzesco, Napolitano dice che dal 2005 si sta aspettando la riforma elettorale e loro cosa fanno quei cialtroni? Applaudono. Dal 2005 ad oggi dove cavolo erano quei cialtroni? Ma basta, ma quale Parlamento? È un cimitero! Buongiorno Grillino Milan, piantala di mettere spelamentosi, come possono più, che palle questi che non ne possono più, lamentosi, lamentoni gratis. Che babele. L'unica certezza rimani sempre tu. sento continuamente parlare di Giuliano Amato, che nessuno lo vuole perché è quello della mossa notturna, del prelievo sui conti correnti, ma non era da solo, ha avuto le spalle coperte da tutti gli altri maiali che sono ancora lì. Dopo i discorsi di Napolitano e la figura di merda che facevano tutti i pezzenti che ci battevano le mani, ma lo dice un napoletano quello che sa da fare. Mi vicino a ogni politico, quando lo incontrate, ci gridate pezzente e ci buttate in faccia 3 o 4 monetine. Pezzente, sì, pigliate pure queste, fatelo a tutti i politici che incontrate, a quelli più ricchi pure. Quelli sono tutti pezzenti, pezzenti, sì, pezzenti nell'anima. Beh, guarda Alessandro, io ho una spiegazione a tutti quegli applausi al discorso del Presidente della Repubblica, ce l'avrei. E il fatto che il Presidente della Repubblica mica che stava parlando con loro, stava parlando con Pasquale, è Totò Docet. Pasquale, mannaggia te! Pasquale! Figlio di un cane, Paola Saluzzi, ce l'aveva con Pasquale. Questa ultima è una grande battuta, ce l'aveva con certo, Pasquale. Certo, mica parlava a quelli lì che stavano ascoltando e applaudivano. Oggi anche Luca Dini hai messo in campo tutti i tuoi collaboratori, Enrico Mentana, Gad Lerner, Daria Bignardi su Napolitano, a chiedersi su Vanity Fair, ma era la scelta giusta. Io mi sto arrovellando da 3 giorni, ma è possibile che era questa l'unica scelta, Luca? Non ci si doveva arrivare e non bisognava costringerlo a farlo, però sì, capisco che quando alla fine è successo veramente è stata più che la scelta giusta, è stata l'unica scelta possibile. L'unica scelta. C'era invece Milena Gabanelli, e la cito perché finalmente tu mi hai svelato, perché Milena Gabanelli, bravissima collega, è sempre stata molto gelosa della sua, non si è mai saputo nulla della sua vita, della sua vita intorno. Invece voi cosa avete fatto? Avete intervistato il marito, gli amici, per capire chi è Milena Gabanelli, sempre con questo fare molto serio, molto serioso, molto, molto, no? Ma quasi mai sorridente. Invece è così, è davvero così, Milena Gabanelli? No, non è affatto così, però insomma, cioè, dietro questa scorza, diciamo, c'è una persona molto semplice, molto affettuosa, così viene descritta. È un uomo molto simpatico. Nell'articolo che avete fatto intervistando anche il marito di Milena Gabanelli. Vabbè, che dobbiamo dire non ho detto la copertina, ma glielo dico a Paola Saluzzi, così sarà contenta. Stavolta ho vinto io, sai che c'era, non c'è bolle, non c'è bolle con i suoi muscoli photoshoppati. No. C'è Beyoncé, Beyoncé. No, lo dico io, però. È una bella vista, dai, è una bella vista. Non è che lo dici tu, lo dico io, però. Vabbè, noi siamo femmine solidali con le donne belle. Vabbè. Allora vi faccio sentire questa Giuliano Amato, così voglio vedere se tira fuori l'ottimismo anche dopo questa. Giuliano Amato sui giovani, i giovani e il lavoro in Italia. Parlava di recente a una conferenza dicendo che si lavora poco in Italia, si lavora poco. Sentite Giuliano Amato, forse possibile futuro e imminente presidente del Consiglio. Si è diffusa da noi, e questa è una caratteristica molto italiana, la attitudine, specie tra voi giovani, a lavorare quel tanto che basta, a fare quel tanto di reddito che mi basta e mi garantisce che poi faccio il mio weekend e ho la possibilità di pagarmelo, pagare la moto, eccetera, che è tipico del tassinaro romano, che lei a una certa ora dice no signore, no io vado a casa ora, dice ma come va a casa, porti prima a casa me, no io ho fatto abbastanza, rivederla, e la lascia lì, è perché lui ha fatto le sue ore e ha fatto il suo reddito e va a casa. Eccolo lì, Paola Saluzzi, questo è il clima in Italia. Dai, tira fuori l'ottimismo adesso dopo questa battuta, come il tassinaro di Roma. No? Rido perché anni fa, allora io difendo la categoria dei tassinari con tutta me stessa, perché sono un pezzo di casa mia, però anni fa mi è capitato la stessa voglio cosa. Andare all'Eur e no io ho finito il turno, devo andare a casa a mangiare. Ma come devo andare a casa a mangiare? Pure io devo andare a casa a mangiare. I tassinari, i tassisti di tutta Italia ci sono ascoltano tantissimo. Tutti sono contro Paola Saluzzi che vi ha accusato di essere dei fancazzisti. I tassisti sono un pezzo di casa mia, però questo mi capitò negli anni '80 e fu un momento memorabile, lo ammetto. Non applicabile ovviamente ai ragazzi che vogliono lavorare. Prendi un bel taxi oggi a Roma, poi mi dici il tassinaro che ti dice: ho sentita stamattina, lei ha detto che noi abbiamo che un rapporto molto stretto con i tassinari, non possono volermene, sanno che è vero, i loro nonni si comportavano così, e non dico oltre sulla mia età, ma insomma voglio dire, l'importante è dare lavoro ai ragazzi, dare lavoro. Questo sì. Devo chiudere con questo flash. Matteo Renzi intercettato fuori dalla 7, l'ho presentato a Lilli Grube. Allora, per me diventi presidente del Consiglio, diventi presidente della Repubblica, rimanga a fare il sindaco di Firenze, tutto quello che vuole. Ma c'è una cosa che mi ha disturbato, che ha detto, sono due secondi, sentitela. Va bene, mi sa che quest'anno andiamo anche in Champions. Maledetto Luca Dini, maledetto tifoso della Fiorentina, no, tutto, ma in Champions al posto del Milan, non l'accetto, mi sa che quest'anno andiamo anche in Champions. Dai, cambi cognome. Speriamo che l'abbia gufata alla Fiorentina. Vabbè, però mi avete tolto il contadino di Terni, direttore, intanto l'avete tolto. Lo metto in chiusura, intanto vi saluto, grazie a Paola Saluzzi e a Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buona giornata. Grazie. La zappa da 7 chili, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo la cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:21 minuti, allora siete pronti, cari italiani? Oggi scopriremo in tarda mattinata chi è il presidente del Consiglio incaricato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E il nome più gettonato è Giuliano Amato, ma anche Enrico Letta potrebbe essere scelto. Pare invece scendere Matteo Renzi nelle possibilità, e forse un'idea anche terza, Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale. Ma comunque, secondo i giornali che ora andiamo a sfogliare, Giuliano Amato è in testa. Noi ne parleremo poi con ospiti. Alle 8:15 sarà con noi il sindaco di Salerno del PD, Vincenzo De Luca, una voce sempre tagliente, una lingua tagliente su quello che succede all'interno del suo partito. Con noi avremo ospite anche il direttore di TGCOM 24, Mario Giordano, dalle 8:30. E allora andiamo a sfogliare questi giornali che trovate in edicola. Mercoledì 24 aprile, intanto i titoli, il Sole 24 Ore parla della situazione finanziaria dopo le scelte, dopo la conferma di Napolitano, la corsa ai BTP lancia Piazza Affari. Questo è il titolo di prima pagina. La politica, Corriere della Sera, Amato e avanti, Letta in corsa, oggi l'incarico, si prepara un governo snello di 12 ministri. Repubblica, Berlusconi boccia, Renzi premier, La Stampa, premier si va verso Amato. L'Unità, spareggio Amato-Letta, Il Messaggero, Amato favorito, Letta in corsa. Il Fatto Quotidiano, PD, signor sì Napolitano, al governo col Caimano. Libero, occhio alla fregatura, larghe intese. Il Giornale, meno tasse o voto, queste sono le condizioni poste da Berlusconi. Il Secolo XIX, Amato avanti, il PD balbetta. Per Avvenire invece, un governo di servizio, mentre il titolo di prima pagina del Manifesto Beh, è un titolo anche un po' complicato, non in linea con quelli del manifesto. Centralismo demotragico, questo è il titolo di prima pagina del manifesto, che tuona insomma contro le larghe intese. Ma io, cari ascoltatori, dopo un po' di tempo oggi ho scovato due o tre articoli proprio da tenere le mani strettissime sul volante, mani sul volante strette, come scrivo sul mio profilo Twitter Alino Milan, anzi se volete seguirmi siete benvenuti, oppure mani sulle tazzine del caffè, appoggiatele assolutamente, bomboloni alla crema appoggiati anche perché esplodono quelli se strizzate. Allora, Repubblica, le province, 10 nuovi assessori nella provincia abolita, scrive Emanuele Lauria a pagina 14, succede, paradossi d'Italia, ad Agrigento, in Sicilia. Vi ricordate, in Sicilia sono state abolite le province, ci avevano detto, ma è salito sul ponte più alto del suo Titanic e da lì non vuole più scendere, così scrive Lauria. Le province in Sicilia sono state dichiarate defunte per legge il 20 marzo, ma Eugenio Dorsi, presidente dell'ente agrigentino, ha deciso di sfruttare al meglio l'ultimo mese di mandato prima dell'arrivo del commissario regionale. Dopo aver rifatto per intero la giunta, ha aggiunto ieri altri due assessori, 10 poltrone in tutto, rese appetibili da stipendi da 4.000 euro, lordi per carità, sono gli spiccioli di una stagione di sfarzi che sembra non finire mai. Le nomine al photo finish di Dorsi rafforzano il record personale del presidente della provincia di Agrigento, in meno di 5 anni ha assegnato oltre 50 incarichi, in media quasi un assessore al mese, imbarcati senza distinzione esponenti del PDL, del PD, in ossequio alle alleanze ballerine del suo movimento, cioè il Movimento per le Autonomie, e del suo leader Raffaele Lombardo. Anche per giustificare l'estrema giravolta, Dorsi si rifugia dietro alle indicazioni di un partito, Fratelli d'Italia, e dice così: avevo nominato un assessore di questo partito, fate bene fratelli, o come si chiama, dichiara testuale a Repubblica, ma dopo una settimana mi hanno detto di ritirarla, non volevo mortificare questa ragazza, ho cambiato tutta la giunta, con il risultato che la ragazza in questione, nominata assessore 7 giorni fa, Valentina Palumbo di Grotte, è tornata a casa dopo 6 giorni da assessore. Al 7° mi sono riposata come il signore, ha detto in maniera scherzosa. Al suo posto, in seguito a una microrecessione, ecco, altra nuova giunta, nuovi 2 posti aggiunti. E dice il presidente Dorsi: ma guardi, fosse per me lavorerei pure senza giunta, ma dobbiamo fare il bilancio, la legge non me lo permette, e poi la prego di comprendere, non mi faccia passare per il cretino di turno, ho già altri guai. Ecco, gli altri guai, racconta Emanuele Lauria, a cui si riferisce, è che il presidente è accusato di avere fatto piantare nel giardino della sua villa 40 palme acquistate a 150 euro l'una e scaricate sui costi della provincia. E alle anche le palme in giardino, questa è l'accusa, al spese della provincia. Mi sa che lo vorrò chiamare il presidente della provincia di Agrigento, Dorsi. Mani sul volante, sempre ben strette, saltiamo sul Fatto Quotidiano, Marco Palombi. Trovate la notizia pagina 8, deputati trombati e stipendiati dal Secolo d'Italia. Il Secolo d'Italia è il quotidiano di Fratelli d'Italia, credo adesso, o era prima del PDL, forse di Alleanza Nazionale, non lo so più di chi è, credo di Fratelli d'Italia, sì. Racconta Marco Palombi, a volte ritornano, mentre ci sono 20 stipendiati, 20 dipendenti del Secolo d'Italia che faticano a prendere lo stipendio, poligrafici, giornalisti, eccetera, ecco che invece cosa fa il giornale? Rimette nei suoi ranghi ex parlamentari. E allora Gennaro Malgeri, che è stato anche direttore del Secolo d'Italia, si porta a casa, secondo fonti interne citate dal Fatto Quotidiano, da questo mese 6.000 euro netti dal Secolo d'Italia per 14 mensilità. Mamma mia, 14 addirittura mensilità. Tra l'altro racconta il Fatto, parlamentare dal 96, con una breve parentesi nel CDA della Rai tra il 2005 e il 2008, e tra poco avrà anche il vitalizio. Poi c'è anche Italo Bocchino, riqualificato al Secolo d'Italia, anche lui secondo, con uno stipendio che ammonta a circa 3.000 euro al mese. Italo Bocchino, oppure Mario Landolfi, anche lui, e ancora Silvano Moffa, che è però solo collaboratore, un contratto da collaboratore, tutti riqualificati e tutti reinseriti al Secolo d'Italia, dove, racconta il fatto, invece ci sono dipendenti che faticano a prendere lo stipendio. Va bene, avete ancora le mani sul volante, vi racconto ciò che Michele Anselmi racconta sul Secolo XIX, invece, in prima pagina di oggi. Prende spunto dalla dichiarazione del neo assessore alla Regione Lazio Lidia Ravera, scrittrice intellettuale, che ha dichiarato 2 giorni fa: per me fare l'assessore in Lazio è un grande sacrificio. D'altronde io ogni anno, il 1° maggio, parto, vado a Stromboli e ci rimango fino a fine ottobre. Da lì scrivo, produco reddito. E invece adesso da assessore alla Regione Lazio comprensibilmente non lo può fare. Un grande sacrificio. L'assessore Ravera è il sacrificio dei 6 mesi a Stromboli. Così Michele Anselmi in prima del Secolo XIX: 6 mesi all'anno sotto il vulcano a scrivere e meditare, o 11 a fare l'assessore alla cultura nel palazzone un po' sputtanato della Regione Lazio? Lidia Ravera, torinese, 62 anni, scrittrice, sceneggiatrice, polemista, ha scelto da esterna senza partito di accettare la proposta del neogovernatore Nicola Zingaretti, giusto? Ma allora perché farla tanto cadere dall'alto? Confessando quanto segue in un'intervista a Michela Greco di Paese Sera: ho rinunciato alla mia libertà, alla mia vita da privilegiata per impegnarmi alla regione. Voglio provarci, il mio è un grande sacrificio. Il 1° maggio di ogni anno parto per Stromboli e ci rimango fino alla fine di ottobre, da dove produco reddito seduta sul mio terrazzo. Se ho rinunciato a tutto questo, deve valerne la pena. Avete letto bene, scrive Anselmi. Grande sacrificio, ha detto. Qui a Roma tutti hanno sorriso, pure sghignazzato nel leggere queste parole, forse ingenuamente dette in fondo a un'intervista ricolma di buone intenzioni. Ma insomma, il dato di fatto è questo: il grande sacrificio di Lidia Ravera, che deve rinunciare per scelta a 6 mesi a Stromboli l'anno. Vabbè, siete pronti invece ad altri sacrifici? Qualcuno ha ricordato subito Giuliano Amato, ma come quello dei prelievi forzosi, dei conti correnti? Sì, quello lì, lui, forse sarà lui il prossimo premier. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui alle 7:35 minuti. Allora, cerchiamo di capire attraverso la lettura dei giornali se sarà davvero Giuliano Amato il premier incaricato. Oggi in tarda mattinata pare Giorgio Napolitano parlerà e indicherà a chi intende affidare il mandato di formare un governo. Un governo che dovrebbe essere snello, 12 ministri, bipartisan, i nomi poi ci sono dei ministri, c'è il Toto Ministri se vi volete esercitare sui giornali. Comunque l'identikit della persona a cui affiderebbe l'incarico Giorgio Napolitano sembra proprio essere quello di Giuliano Amato. Napolitano punta su Giuliano Amato, titolo al Sole 24 Ore, a pagina 7, per esempio, con Lina Palmerini racconta che Napolitano punta su un governo politico pienamente legittimato da entrambe le Camere per fare quel programma di riforme istituzionali e economiche che lui stesso ha elencato alla Camera, puntando l'indice contro le omissioni dei partiti. Oggi è il giorno decisivo per chiudere in fretta la partita. Sarebbe un incarico pieno quello di Napolitano affidato ad Amato, verrebbe accettato con riserva, ma la riserva potrebbe essere sciolta già giovedì, e cioè domani 25 aprile, con il giuramento del nuovo governo e possibile fiducia entro sabato. Insomma, sembra che ci sia proprio un'accelerazione abbastanza clamorosa. E anche Marzio Breda, sempre molto attento a come quirinalista a quello che succede sul Colle di Roma, racconta, pagina 3, sotto il titolo "A Napolitano il sì dei partiti", cosa avrebbe detto ieri Napolitano, per esempio, alla delegazione del PD: voi, come del resto Scelta Civica, non mi fate nomi e vi affidate a me. Io potrei dire che mi affido a voi, e allora vi prego di riflettere su una circostanza. Il PDL ha avanzato una sola secca candidatura per Palazzo Chigi, quella di Giuliano Amato. Da qui si deve partire. Cosa ne pensate? Ecco, questo è, secondo Marzio Breda, ciò che Napolitano ha detto alla delegazione del PD. Quasi alla lettera, queste sono le parole che Giorgio Napolitano ha rivolto alla delegazione del Partito Democratico con cui ha chiuso il giro di consultazioni per risolvere il rebus del governo. Dunque, secondo il Corriere, il PDL vuole un solo nome, Giuliano Amato, e da qui Napolitano dice bisogna partire. E quando uno mette insieme la dichiarazione finale di Enrico Letta, che dice abbiamo deciso di affidarci alle scelte di Giorgio Napolitano, insomma, tutto porta a pensare, poi almeno mi colpi scena, che debba essere proprio Giuliano Amato la persona scelta. E infatti Marzio Breda lo scrive: il presidente si è preso una notte per riflettere ancora, ma ormai tutto sembra chiaro, si va verso un incarico pieno a Giuliano Amato, l'uomo con il profilo che più risponde all'identikit immaginato al Quirinale per la guida dell'esecutivo d'emergenza che serve al paese. L'eterno ritorno del dottor Sottile, così il titolo di pagina 5 della Stampa, firma Paolo Festuccia, racconta anche la giornata di ieri di Giuliano Amato alla Scuola Normale di Pisa. Abbiamo fatto sentire anche l'audio quando una giornalista gli ha detto: beh, ma cosa farà? Farà un prelievo forzoso dei conti? E lui: lei quanti soldi ha, signora, sul conto? Dai che mi interessa, no? Ha scherzato su questa cosa. E ancora: lo possiamo chiamare presidente? Ma io sono il presidente del tennis club di Orbetello, quindi mi chiamano sempre così. Insomma, una giornata un po' così tra le battute e anche qualche tensione, perché ieri, quando era la normale di Pisa, all'interno, racconta ancora l'Unità con Natalia Lombardo, torna Amato sulla questione delle pensioni. Non è solo l'uomo del prelievo forzoso dai conti correnti degli italiani, ma è anche l'uomo che viene accusato di essere il pensionatone di lusso. Volano cifre 31, 20, 30 mila, 20 mila euro al mese, eccetera. Ieri Giuliano Amato, ancora stizzito, ha voluto precisare a una giornalista, Monica Raucci, dell'Ultima Parola, che lo aveva avvicinato durante il convegno a Pisa, della notizia falsa dalla quale, dice, di recente aveva detto anche: prova a difendermi, ma i blog non mi danno l'occasione di fare delle repliche. Io i 31.000 euro di cui voi parlate non li prendo, si cumula una pensione che percepisco a un vitalizio che automaticamente destina ad attività di beneficenza. Io non sono un cumulatore di prebende, ma l'unico ex parlamentare italiano che ha rinunciato al vitalizio. Allora, eccolo qua, volete sapere i calcoli della pensione fatti dallo stesso Amato? Per la verità lo aveva detto anche a Lilli Gruber di recente: prendo al netto 11.500 euro al mese di pensione, più il vitalizio, ma il vitalizio, dice Amato, io lo verso in beneficenza, dunque non sono soldi che mi prendo. Quindi la pensione sua, lui dice, 11.500 euro al mese. Certo, è una pensione niente affatto bassa. Beh, che eufemismo, niente affatto bassa, dice Amato. Ma il problema italiano non è questo, è che ci sono giovani italiani adulti che, a prescindere dal loro merito, finiscono con l'essere schiacciati a livello più basso, perché si è fermato in Italia l'ascensore sociale. Ecco l'analisi di Giuliano sull'Unità: di contenimento del debito si muore. Comunque, testa a testa tra Amato e Enrico Letta. Anche Enrico Letta è il nome che rimane più probabile a fianco a Giuliano Amato. In realtà il Corriere dice che c'è anche l'ipotesi, se si vuole andare sul tecnico, di Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale. Invece è tramontata l'ipotesi Matteo Renzi, sembra davvero tramontata l'ipotesi Matteo Renzi, che ieri, quasi in una bolla anche giornalistica, era montata durante la giornata. Non c'era politico che non dicesse la sua su Matteo Renzi, addirittura Sandro Bondi, tanto che all'interno del Partito del Popolo della Libertà pare si sia scatenata anche insomma così una polemica nei confronti di Sandro Bondi, che aveva fatto il suo endorsement per Matteo Renzi. Perché? Perché in realtà tutti i giornali raccontano nel retroscena che sia stato proprio Berlusconi a porre il veto sul sindaco di Firenze. Questo lo raccontano tutti i giornali, Corriere, Repubblica, lo dice lo stesso Renzi. Addirittura, secondo Francesco Verderami sul Corriere a pagina 5, c'è stata proprio una telefonata. Cioè Matteo Renzi, quando il nome cominciava a circolare, il suo nome, ha chiamato Berlusconi. Proprio un vizio, insomma, qualcuno potrebbe dire. Comunque ha preso il telefono, ha chiamato Berlusconi, sempre se sia vera questa ricostruzione. Caro Matteo, l'ha salutato festante il capo del centrodestra, racconta il Corriere. Noi nutriamo per te grande affetto. Ma no, ma chi l'ha mai detto che non saresti candidabile? Tu potresti rivoluzionare il paese. Poi Berlusconi mette giù, click, si gira ai suoi e dice: non se ne parla proprio. Ecco, questa sarebbe la versione del Corriere, con Berlusconi che avrebbe anche aggiunto: certo, ci fosse stato un Silvio Berlusconi al Quirinale, allora. Ma è così, Berlusconi avrebbe bocciato Renzi. Renzi lo dice anche per il fatto, e secondo retroscena di Stefano Feltri a pagina 4, è stato Gianni Letta, che è lo zio di Enrico Letta del Partito Democratico. Gianni Letta, la grande insomma, eminenza grigia di Silvio Berlusconi, ambasciatore di tante iniziative, è lui che avrebbe avvicinato Matteo Renzi dicendogli: caro Matteo, con tutta la stima che sa, il presidente Berlusconi ha deciso che non può far partire il tuo governo. E quindi Matteo Renzi, anche sul Corriere, su Repubblica, dice: è stato proprio Berlusconi che non mi ha voluto. Tra l'altro Renzi ha regalato una straordinaria battuta, ieri era a Roma, dopo la direzione del PD. Ha detto, racconta Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, pagina 9: pensa un po', ora vado a una mostra sul Machiavelli. Indovinate chi è il curatore di questa mostra? Giuliano Amato. Cosa devo dirvi? Sono paraculo fin da piccolo. Così Matteo Renzi, che è andato con un sorriso autoironico alla mostra di Machiavelli, e quindi ha incrociato Giuliano Amato. Ah, complottoni. In realtà Matteo Renzi dice: sono qui perché abbiamo fatto tanti prestiti da Firenze per questa mostra sul Machiavelli, e però insomma casualmente c'era anche Giuliano Amato in questa mostra. È Berlusconi che non mi ha voluto. Così Matteo Renzi: per la prima volta gran parte del PD si era ricompattata sul mio nome, non era mai successo. Il primo ad avere l'idea di propormi per la presidenza è stato Fassino. Uno a uno gli altri si sono detti d'accordo, era d'accordo Walter, cioè Walter Veltroni, era d'accordo Umberto Ranieri, l'allievo prediletto di Giorgio Napolitano, insomma tutti d'accordo, sono stato leale. Ma poi è Berlusconi che non mi ha voluto. E ora su Repubblica invece retroscena di Renzi, che dice: il veto di Berlusconi su di me è addirittura un buon segno per il futuro. C'è questa frase attribuita a Matteo Renzi nell'articolo di Goffredo De Marchis che trovate a pagina 7, una frase perentoria: ora mi prendo il partito. Matteo Renzi, pronto sulle macerie del Partito Democratico a sfruttare questa occasione. Dice anche Repubblica: ho parlato con Letta, e cioè Enrico Letta, ci siamo capiti al volo, se io andavo a Palazzo Chigi il segretario sarebbe stato lui. È la saldatura delle nuove alleanze, la saldatura generazionale, anche il patto con i cosiddetti giovani turchi, con Matteo Orfini, insomma Matteo Renzi pronto a scalare il Partito Democratico con un patto generazionale, scrive Repubblica, siglato con i giovani turchi, l'archiviazione di un gruppo dirigente da completare, sembrano spingere Renzi ad affrontare seriamente la pratica PD e a prendere le redini del partito. Allora, in tutto questo il Partito Democratico, ieri chi ha assistito in streaming alla direzione del partito sta vivendo una vera fase di contestazioni, lacerazioni, rotture, uno psicodramma, con le contestazioni. Rosy Bindi l'abbiamo fatta sentire alle 6.30, uscita da e contestata da alcuni, a un certo punto ha detto: io gli do un pugno a questo contestatore. Ma Rosy Bindi, ma come un pugno? Ma perché, a parte che un pugno non si dà mai, e poi con la scorta e i carabinieri attorno è facile dare un pugno. Ma comunque, insomma, Rosy Bindi al contestatore, titola il Messaggero: ti do un pugno. Così Mario Aiello a pagina 7. Gridano vergogna, urlano traditori, non sono tanti, qualcuno di loro ha l'aria del destrorso, che a cui il PD naturalmente fa orrore. Altri sembrano grillini, vetero rifondaroli. C'è chi sostiene tra i protestanti di aver sempre votato PD, ma ora basta, arrendetevi, siete circondati. E se Rosy Bindi avesse visto il falso grillo scambiandolo per vero, gliene avrebbe detto 4, essendo lei una tipa sanguigna e poco sensibile alle ragioni dell'antipolitica. Rosy Bindi non lo vede, ma c'è qualcuno che vede lei, un militante infuriato le manda parolacce a lei e a tutto il partito, e Rosi, difesa da due agenti in borghese, urla: guarda che ti do un pugno. Vabbè, il clima, io l'ho detto da 2 o 3 giorni, anche le contestazioni a Franceschini, a Fassina, anche ieri Giuliano Amato e Profumo contestati dagli studenti alla Normale di Pisa, il clima non è per nulla un bel clima. Intanto Vittorio Grilli, ministro dell'economia, non tanto lui ma il suo avvocato, prende carta e penna e replica al Sole 24 Ore che ieri ha fatto una lunga inchiesta sull'acquisto della sua casa con scrive il Sole, soldi che sono stati prelevati da un conto in paradiso fiscale e con ristrutturazioni fatte in contanti. Queste erano le due pagate in contanti, le due accuse. L'avvocato Ida Favero pubblica il Sole 24 Ore la replica, pagina 20, una replica che si conclude così: la signora Lowenstein, cioè la ex moglie di Grilli, su cui si basava anche parte dell'articolo di Claudio Gatti, stando alle notizie di stampa, dopo la sconfitta economica nella causa di divorzio in primo grado, tenta di divulgare ora senza provare circostanze o false o mistificate o narrate in modo erroneo, tale da ingenerare equivoci e sospetti sul professor Grilli. In realtà anche il portavoce del ministro Filippo Pepe ha inviato i moduli RV relativi alle dichiarazioni dei redditi 2003 per l'anno 2002-2004, insomma degli anni di Vittorio Grilli, a testimoniare che è tutto in regola. C'è anche la replica di Claudio Gatti che dice: Grilli non contesta né nega un singolo dato di un lungo articolo che di dati ne elenca moltissimi, non smentisce di aver pagato l'appartamento al Parioli con i fondi di un conto offshore nell'isola del Canale di Jersey, non chiarisce meglio i rapporti con Dario Cusani, fratello gemello di Sergio, che promuoveva parenti e amici per affari con il tesoro. Insomma, secondo il Sole, in realtà non chiarisce tante cose. Su questa vicenda, lanciata dal Sole 24 Ore, si lanciano ora gli altri giornali: Libero, soldi offshore per la casa del ministro Grilli, e anche Il Fatto Quotidiano con Marco Lillo: Grilli, quei soldi offshore per pagare la villa ai Parioli. Marco Lillo telefona anche al ministro dell'economia Grilli. L'intervista la trovate a pagina 9, si difende il ministro: tutto regolare, ma ora non ho con me le carte. Ecco la telefonata. Grilli in realtà all'inizio non vuole parlare, dice: quello che avevo da dire l'ho detto al Sole 24 Ore, ma può mandarci la prova che ha dichiarato nel 2005 i conti? In tutte le mie dichiarazioni c'è tutto, interessi in Italia e all'estero. Non può darci il quadro RV di quell'anno? Lei pensa che io possa avere sotto mano qualcosa di 9 anni fa? È fisicamente impossibile. Non c'ho qui sotto mano, non ho i documenti. In realtà il Sole 24 Ore, torno alla replica di Claudio Gatti, dice: approfittiamo dell'opportunità per invitare il ministro a spiegare ai nostri lettori e agli italiani perché mai abbia ancora un conto non solo all'estero ma in un paradiso fiscale. A noi ha detto che è rimasto aperto perché riaprire quei conti è problematicissimo. Questa è la dichiarazione di Grilli secondo Claudio Gatti. Forse per gli italiani ha una risposta più convincente. Comunque continua insomma la polemica dopo l'inchiesta lanciata dal Sole 24 Ore sull'acquisto della casa di Vittorio Grilli. Tra l'altro di questo acquisto della casa ne parla anche Mario Giordano nel suo libro uscito Tutti a casa, di cui parleremo anche alle 8:30 con Mario Giordano. È insomma una vicenda che promette nuovi sviluppi. Il modello Crocetta è in crisi invece in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle è rottura tra Crocetta e il Movimento 5 Stelle. Il Sole 24 Ore, Nino Amadore, a pagina 6 lo trovate l'articolo, ve lo segnalo dicendo solo che un collega che si occupa di cose siciliane, mio conoscente, mio amico, poco tempo fa mi ha detto: bisognerebbe spiegare una volta per tutte cos'è sto modello Sicilia. A mio parere una grande minchiata, ma insomma sono opinioni ovviamente personali che giro a voi. Chiudo con Amanda Knox. È tornata perché non è tornata in Italia, perché non metterà mai piede nonostante si debba rifare il processo per l'uccisione di Meredith Kercher. È tornata alla ribalta perché sta per uscire il suo libro. Io leggo il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, forse già si tradisce l'emozione e un po' di nervosismo mi assale. Alcune anticipazioni di Alessandra Farkas sul libro di Amanda Knox. Cantai e ballai nella stanza di Metz durante i rilievi della polizia. E perché? Era un tentativo per allentare la tensione, perché tutto era così surreale e terribile. Cioè c'era una ragazza morta, per la quale Amanda Knox, visto che hanno rinviato il giudizio, bisogna rifare il processo, è formalmente ancora accusata dell'omicidio di questa ragazza insieme a Raffaele Sollecito. E lei dice: cantai nella stanza di Metz durante i rilievi della polizia, accennai a un balletto, lo feci per calmarmi per quella vicenda surreale. Io quando sento queste cose mi vengono in mente la cosa più antigarantista che ci sia al mondo, ma è il mio pensiero che ogni tanto mi assale. In alcuni casi, come in questo, ci vorrebbe l'inversione dell'onere della prova. Dimostri che è innocente, Amanda Knox. Lo dimostri lei. Ventiquattro mattino. La politica nel tunnel. Le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Chissà se usciremo da questo tunnel nel quale è entrata la politica. Oggi ci sarà sicuramente una svolta. Sarà Giuliano Amato? Molto probabilmente è così. Il premier incaricato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, incaricato di formare un nuovo governo, dovrebbe succedere tutto molto velocemente questa mattina, in tarda mattinata l'incarico, poi una formazione di un governo snello, 12 ministri, domani forse il giuramento, entro fine settimana la fiducia alle Camere. E secondo i rumors Giuliano Amato, ma anche Enrico Letta potrebbe essere un'altra possibilità, sono i due nomi più gettonati, mentre sembra tramontata l'ipotesi Matteo Renzi. E c'è un paese da salvare intanto, un'economia da risollevare, un lavoro da dare, dei soldi da dare alle imprese che chiudono, i sindaci e gli amministratori locali che si lamentano, vogliono denari freschi, vogliono cercare di risolvere i problemi quotidiani. Per questo noi vogliamo parlare di questa situazione con un amministratore locale, ma anche un dirigente che del suo partito ha sempre detto quello che pensa in maniera molto chiara, è Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno e esponente del Partito Democratico, che saluto. Sindaco, buongiorno, eccoci. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E allora, sindaco, intanto le chiedo, vabbè, visto che il toto nome lo si fa Giuliano Amato, è un nome che guarda al futuro secondo lei? Una personalità di rilievo internazionale che ha l'esperienza necessaria per governare questa fase maledettamente difficile, ma non andrei oltre, mi limiterei a dire faccia Napolitano, perché credo che nessun altro a questo punto sia legittimato ed abbia la credibilità per porre nessun problema. Ieri nella discussione della direzione tale Matteo Orfini ha avuto, diciamo, la effervescenza di dire: noi dobbiamo sostenere un governo, però dobbiamo porre paletti a Napolitano. Lei se lo immagina uno che va da Napolitano e gli pone i paletti? Credo che lo caccerebbe fuori dalla stanza dopo 30 secondi. Poi forse dice da Orfini, con tutto il rispetto. Quindi manteniamoci sobri e diamo mandato a Napolitano di fare la scelta che ritiene più giusta. Anche perché due giorni fa è successa questa scena surreale che tutta l'Italia, tutto il mondo forse ha visto, semmai nel mondo proiettano una scena del genere. Cioè al giuramento di Napolitano, l'ha vista anche lei, no? Quello che gli di uno che diceva che prendeva schiaffi e l'altro che dicevano ancora, ancora di più, bravo, bis. E lei come l'ha interpretata questa scena? Come l'immagine di un paese ridotto al cabaret e di una politica ormai nelle mani di saltimbanchi, francamente. Hanno ricevuto bastonate sull'osso del collo, però erano molto contenti tutti quanti, ho visto che applaudivano, una cosa sconcertante. Perché? Ovviamente. Perché? Successiva ad altre immagini sconcertanti come quelle relative alle votazioni sulla presidenza della Repubblica. Io personalmente non ho ancora consumato il senso di vergogna, di umiliazione che ho provato per quello che ha combinato il Partito Democratico in termini di inconcludenza e per l'immagine di correntismo, di frantumazione, di stupidità che ha dato. Ma questi franchi tiratori chi saranno stati? Cioè chi è che ha impallinato Prodi? Al di là lei se l'è data questa, cioè questi 101 traditori. Sa, Marini almeno qualcuno, i renziani avevano detto noi non lo voteremo, ma Prodi c'è stata la standing ovation, cioè tutti erano pronti a sostenere Prodi e poi hanno votato contro. ci sono stati i franchi tiratori occulti e i franchi tiratori espliciti. Io sono fra quelli che non fanno nessuna differenza fra quelli che hanno votato contro Marini dicendolo, tipo Renzi. Non credo che ci sia una particolare ragione di merito nel votare contro la decisione presa dalla maggioranza degli elettori. Quindi Renzi ha la stessa responsabilità di quelli che hanno votato nel segreto contro Prodi, anzi, per quello mi riguarda, ha una responsabilità più grande, perché Marini era un nome che rispondeva ai criteri decisi dalla direzione del partito, e cioè un nome unitario. Prodi no, perché era un candidato di rottura. E dunque è stata una grande festa di ipocrisia e di correntismo a cui hanno partecipato Renzi, la sua corrente, le correnti occulte e tutto quel marasma di improbabili che ormai vive in un partito che va rifondato dalla base. Peraltro io faccio fatica a capire, da parte di chi voleva rottamare il mondo intero, la proposta di Prodi, che era presidente dell'IRI negli anni '80. Insomma, mettiamoci d'accordo, insomma, perché Renzi tempo proprio delle furbizie è finito per tutti quanti. Non le sono piaciute le mosse di Renzi, e allora alla domanda di Matteo Renzi Premier, che ieri era un'ipotesi che sembrava montare come la panna, come un soufflé, poi si è sgonfiata forse nella sera, almeno così sembra, non voglio anticipare quello che deciderà Napolitano, ma lei come l'avrebbe visto Renzi? Stavo in direzione per vedere a che punto di indecenza arrivavano alcuni giovani dirigenti. Se i giovani dirigenti sono quelli, credo che possiamo apprezzare ancora di più la freschezza degli ottantenni. Aspettavo che qualcuno di cosiddetti giovani turchi, cioè quelli che per due mesi ci hanno raccontato che anche parlare con la PDL era un delitto, era qualcosa di cui vergognarsi, si stavano preparando a proporre, diciamo, un governo con il PDL a marcata partecipazione politica. Veramente non c'è limite al trasformismo, all'indecenza e all'incoerenza. Bisogna ripartire da zero. Ma ripartire da zero, scusi, vuol dire Bersani, secondo lei l'era Bersani è finita? Cioè lo stesso Bersani si è fatto un passo indietro, ma è improponibile ripartire da Bersani? Mi è dispiaciuto che si sia dimesso, ma era inevitabile questo suo gesto dopo il disastro a cui è stato portato il partito. Ma devo dire con grande chiarezza che condividono questa responsabilità tutti, Enrico Letta compreso, perché era vice segretario, ha partecipato a tutte le scelte per le liste, ha fatto le trattative con i grillini. Lei ricorda quel tavolo splendido con Letta e Bersani da una parte e i rappresentanti 5 Stelle dall'altra, quel tavolo squallido, ma aspettavo che arrivasse da un momento all'altro la coda vaccinata sul tavolo. Beh, faccio fatica a capire la distinzione di responsabilità. La verità è che abbiamo constatato in questo passaggio il fallimento di un gruppo dirigente. E il fallimento ha tre ragioni. Prima, il correntismo sfrenato, che va distrutto. Seconda ragione, dirigenti inventati. Non ce n'è uno che sia radicato in un territorio o che venga da esperienze reali. E terzo, nodi politici non sciolti, a cominciare dall'idea di partito che si vuole costruire. Ma il PD da dove riparte secondo lei? Cioè da chi da riparte? Tre nodi. No, ma da chi riparte anche come nomi? Voglio dire, Renzi mi sembra di capire. Renzi oggi dichiara su Repubblica, secondo Repubblica, e ora mi conquisto il partito. L'immagine secondo lei Benvenuto. Apriamo questa battaglia, vediamo dove andare. A me il fatto che si dica io conquisto, voglio capire per fare che, per andare dove. Io voglio contestare la palude burocratica che ha espresso il gruppo dirigente di Bersani, ma non credo che il punto di approdo possa essere il giubbino di pelle nelle trasmissioni televisive, molto francamente. Ma senta, voglio un rinnovamento radicale, ma una forza politica seria, rigorosa. E nella quale ci sia anche spazio per la militanza e soprattutto per i territori. Sì. Un partito esprime innanzitutto i territori, non le anime morte che stanno sospese per aria e non si sa che diavolo rappresenti. Ma nel frattempo con Berlusconi che si fa? Tutto bene? È un inciuccio oppure è il legittimo e giusto sbocco di queste elezioni molto tormentate fare l'accordo, questo governo di larga intesa? È la presa d'atto della realtà. Questo ripetersi in maniera ossessiva, questa imbecillità dell'inciucio è diventata una cosa insopportabile. Forse non tutti hanno ancora capito che il PD ha perso le elezioni e che non c'è nessuna maggioranza in questo paese. L'alternativa dunque è fra queste due ipotesi: o andiamo a votare a giugno con la stessa legge elettorale e con un risultato prevedibile di avere Berlusconi leader, questi sono i dati di oggi, oppure si prende atto della realtà, che a me non piace, ma i numeri sono quelli. Non possiamo continuare a proseguire su una linea demenziale come quella di questi due mesi. Sì. Vogliamo un governo di cambiamento, non abbiamo i voti per farlo, chiediamo i voti alla PDL ma senza domandarli formalmente. Ma queste cose incredibili non stanno in piedi. Allora si apre una trattativa su pochi punti sui quali ci può essere un minimo d'intesa per riformare la legge elettorale e prendere alcune misure economiche decisive per le imprese e per le famiglie italiane che stanno morendo. Tra sei mesi però si va a votare, sei mesi si va a votare, per quello che mi riguarda. Ovviamente il passaggio è delicatissimo, io mi rendo conto. Ci può essere veramente un rischio mortale anche per il PD di annacquamento definitivo della sua immagine e della sua distinzione politica, ma qui deve intervenire il partito. Se non ci sarà un partito che si ridà un'immagine ed un'iniziativa forte, il rischio reale è che in questo abbraccio si muore. Questo è anche un altro dato della realtà. Senta, l'ultima è questa, io glielo rifaccio l'ultima domanda come la prima: è vero, sceglie Napolitano, ma lei personalmente, come Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, chi metterebbe a capo il governo? Su Amato ho capito che è stato molto diplomatico a dire va bene, faccia Napolitano, ma no, lei... francamente mi pare una discussione oziosa. Per come si è messa la situazione, credo che debba decidere in maniera diretta Giorgio Napolitano, e per il resto bisogna dire solo: signor sì, abbiamo dimostrato di avere classi dirigenti politiche che non stanno in piedi e non hanno l'autorevolezza neanche per respirare. Va bene, io intanto la ringrazio, stiamo a vedere come va questa giornata. Grazie sindaco. Grazie Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno del Partito Democratico. Detto che insomma, avete sentito come le ha suonate, no? La nostra Miriam Lucchetti, che twitta tutto anche sul profilo 24 mattino, non sapeva più cosa twittare a un certo punto. Lo show di Vincenzo De Luca. Noi, che dire, ci fermiamo 4 minuti, ripartiamo. Con noi ci sarà il direttore TGCOM 24 Mario Giordano, che ci parlerà un po' dell'attualità. Lui ha scritto tanti libri anche su Giuliano Amato, sulla famosa pensione di Giuliano Amato. Adesso ha scritto anche un altro libro sulle case dei politici, un tema molto attuale, visto che quella che è la discussione, anche l'inchiesta di ieri del Sole 24 Ore sulla casa del ministro dell'economia Vittorio Grilli. E che dire, ripartiamo tra 4 minuti. L'attuale situazione politica vista attraverso anche questo libro di Mario Giordano. Tutti a casa, nel senso che se la sono comprata. 24 mattino. Allora, eccoci qua alle 8:33 minuti. Beh, dopo lo show di Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, che ha letteralmente terremotato il Partito Democratico in 7 minuti di intervista, una lingua tagliente ce l'aveva un po' per tutti, ha detto tra l'altro decida Napolitano e noi dobbiamo dire solo signor sì, perché dovremmo scomparire tutti. Questo è il clima con cui accolgo il direttore del TGCOM 24 Mario Giordano. Buongiorno direttore, buongiorno. Benvenuto. Allora, noi dobbiamo parlare dell'attualità politica, che può essere anche vista attraverso l'ultimo libro che hai scritto, tutti a casa. Vabbè, ma quante volte l'abbiamo sentito dire, cioè, tutti a casa di recente, negli ultimi mesi l'abbiamo sentito migliaia di volte riferita a tutti i politici. È che in questo caso si racconta proprio della casa, il mattone. Sanguisughe del mattone, se ecco, possiamo dire. Ecco, il mattone che i politici si sono comprati. È un libro edito da Mondadori, Noi paghiamo il mutuo e loro si prendono i palazzi, proprio un libro inchiesta su come i politici siano comprati le case. Allora, tra l'altro, tema molto attuale, non so se avrai letto la polemica sul Sole 24 Ore dopo l'inchiesta su Vittorio Grilli e l'acquisto su Grilli. Esatto, sì. L'acquisto della casa. Allora, facciamo una premessa, perché poi parliamo anche un po' dell'attualità, perché poi ti voglio chiedere anche delle cose su Giuliano Amato, sul quale anche su qui e sulla cui pensione ti sei sbizzarrito in passato. Però andiamo con ordine: la casa e i politici. Tu hai fatto questo libro inchiesta partendo da una cosa: che cos'è il CERVED? Spieghiamolo agli ascoltatori. Cioè, della banca dati, diciamo, più autorevole nel calcolare il valore attuale delle case, il valore di mercato delle case, diciamo che dà un valore molto moderato rispetto a quello che poi in realtà si può pagare, però diciamo ha una stima di valore reale. E facendo il calcolo di questo valore del CERVED sulle cifre realmente pagate per acquistare immobili pubblici, si scopre che gli sconti vanno dal 30-40% fino all'80% del valore, ripeto, stimato del CERVED. Dal prima Grilli, di cui io parlo anche nel mio libro, lui ha comprato questi 300, lì poi i gatti tira fuori tutto il problema dei soldi all'estero, eccetera. Ma per quanto riguarda la casa, che sono 14 vani ai pari a 710 metri quadrati, ne ha pagati 1 milione di euro, il valore stimato dal CERVED è di 2.256.000, quindi un valore inferiore del 53%. Per cento. Che, per carità, diciamolo subito, in questo libro sono raccontate l'acquisto di case di molti politici, ma non solo, anche di giornalisti, quasi tutti i casi, il 99% legali, perfettamente legali, cioè ottenere uno sconto, perché qualcuno dice, ma sarà bravo a sfruttare gli sconti dei mercati immobiliari, ma guarda caso sono bravissimi, più si è potenti e più si è bravi a ottenere degli sconti. Ma vedi, il problema adesso... Grilli paga 1 milione, ma ci sono 109 metri quadrati in zona Colosseo pagati 177 mila euro da Filippo Patroni Griffi, ci sono delle case ministro. A San Pietro ex magistrato ministro, ci sono 107 vani presa da Franca Chiaramonte in zona San Pietro, 113 mila euro, il valore è di 706 mila, qui siamo addirittura un 84% di risparmio. Come dicevi tu, il problema è che qua è tutto legale, ma per me è una cosa, è un aggravante, nel senso che questi si tratta solo più di appartamenti di enti pubblici o di ex assicurazioni che vengono dismessi con delle leggi che consentono degli sconti che arrivano appunto fino al 30-43%, che sono, a mio modo di vedere, assolutamente insensati e ingiustificati. Allora, sono tanti i politici, poi magari vedremo, c'è anche Marini, però quando hai scritto non sapevi dove saremmo andati con Marini, anche lui ha una casa comprata, credo, la vedo qui sempre a Roma, ovviamente si sta parlando. Sempre a Roma, i Parioli, anche lui, 14 vani e mezzi, l'ha pagato dall'INPDAI meno di 1 milione di euro e la stima è di 2 milioni di euro. Tanto per darti un'idea, Nicola Mancino, per esempio, lui era stato coinvolto in Affittopoli. Quando gli andarono a chiedere i giornalisti, disse: ma no, ma questo è un tugurio, è una gabbia questa casa, per cui questo eravamo a metà degli anni 90, così una gabbia che nel silenzio qualche anno dopo, all'inizio degli anni 2000, si è comprati per 800 mila euro, quando l'ha rivenduta alcuni anni dopo valeva 2 milioni 800 mila euro, quindi nel giro di pochi anni la casa era dell'INA, si è guadagnato 2 milioni in corso Rinascimento, ma si è guadagnato 2 milioni di euro, questo per dare un'idea di quello che c'è dietro, questo che è un sistema generalizzato, è un grande sacco del patrimonio, di un patrimonio fondamentale, mentre, ripeto, la casa sta diventando, voi lo raccontate ogni giorno, l'ANCE, l'associazione dei costruttori lo racconta ogni giorno, un problema per milioni di famiglie. Secondo me è una cosa che bisogna raccontare. Allora, torniamo per un attimo alla vicenda di Vittorio Grilli e attualizziamola, oltre che sul libro, anche sulla cronaca, sui giornali. Oggi Vittorio Grilli, o meglio il suo avvocato, risponde al Sole 24 Ore all'inchiesta di Claudio Gatti, dice tutto in regola. In realtà Claudio Gatti replica, controreplica sul Sole, non ha ancora chiarito perché abbia ancora aperto un conto in un cosiddetto paradiso fiscale. Anzi, alla domanda, scrive Claudio Gatti, fatta al ministro Grilli, perché ancora questo conto fiscale, paradiso fiscale, risponde Vittorio Grilli, è rimasto aperto perché riaprire quei conti è problematicissimo. Ecco, forse gli italiani, dice Gatti, hanno bisogno di una spiegazione un po' più convincente rispetto a questa. Perché c'è questo rapporto? Beh, il rapporto tra gli italiani e il mattone, la casa, lo sappiamo qual è. Anche Berlusconi, l'editore del libro ne ha di case, però comprate, credo invece lui vada sopra i prezzi di mercato. Cioè, una cosa vale 10 milioni e io te ne do 14, più o meno fa così. Ma perché c'è questo rapporto anche tra la politica, i potenti e la casa? Ma perché no? Io credo che gli italiani abbiano tutti una passione particolare per la casa. Siamo, come sappiamo benissimo, il popolo che ha finché può la più alta tassa di percentuale, oltre l'80% di proprietari di casa, quindi credo che sia un rapporto normale. Quello che è strano da noi, e che c'era anche nella risposta di Grilli che citavi, è il fatto che chi ha una posizione pubblica dovrebbe, soprattutto in una fase in cui si chiedono i sacrifici ai cittadini, sacrifici umani, dovrebbe avere una posizione più che trasparente. Cioè, non ci possiamo più accontentare del "io ho rispettato le leggi". Ah, perché le leggi le fate voi, e quindi se siamo in una situazione in cui le leggi fanno sì che le famiglie italiane, i giovani non riescono a comprarsi una casa, le famiglie non possono comprare il mutuo, e c'è chi vive in una casa comprata con 113.000 euro a San Pietro, evidentemente quelle leggi lì non funzionano. E tu non mi puoi rispondere sempre semplicemente "ah, ma io ho rispettato la legge", perché evidentemente la responsabilità completa di questa classe dirigente nel fare queste cose deve essere ritenuta. Forse bisogna dare, come dicevi tu prima, qualche risposta in più, qualche risposta un po' più chiara, un po' più incisiva. Sì, tra non è una cosa specifica del mattone, diciamo, però nel mattone è particolarmente evidente, perché sta lì, sono i muri, li vediamo. Sì, sono i muri, è il bene rifugio. Hanno fatto passare come case per questi trucchi, poi per ottenere questi sconti, fanno passare come case di edilizia popolare queste case vista Colosseo, addirittura il famoso attico di De Mita, al Palazzo del Settecento, vengono vendute enti pubblici come case di edilizia popolare per poter applicare quegli sconti di cui sopra. No, poi hai parlato della casa del Colosseo, ma in realtà mi pare di capire che tutte queste sono case a loro saputissima. Non c'è niente a loro insaputa. Sono proprio, lo sanno, diciamo, bene. Nel libro parlo anche delle case a sua insaputa, parlo di Staiola, sì, parlo di Tremonti, certo. Ovviamente parlo dei casi, diciamo, più noti. Ma queste case invece, diciamo che c'è una consapevolezza perfetta, totale. Per esempio, io ho letto anche non solo i politici, un capitolo che mi ha molto interessato è quello del presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, Presidente. Attilio Befera, no? Il capo dell'Agenzia delle Entrate, tutto regolare anche lì, e diciamo, se no ci parte un'ispezione fiscale immediata e mantiene. Però anche lui ha comprato, bravo, ha avuto degli sconti, cioè è riuscito a ottenere degli sconti, mica male, no? Non sembra di capire. Io Befera ha comprato 7 vani e mezzo all'euro per 369.000 euro. Allora, il valore di mercato è di circa, il valore stimato col CERV è di 600.000 euro. Io sfido a chiunque a trovare a comprare 7 vani e mezzo all'euro a quella cifra. Pietro Grasso, Luigi Giampaolino, idem, presidente della Corte dei Conti, ha comprato 6 vani a Prati, Piazza Colla di Rienzo, per 413.000 euro. Anche qui il valore stimato CERV è oltre gli 800.000 euro. Un risparmio del 50%. 50%. Però, insomma, alla domanda che tutti dicono, ma saranno bravi a ottenere questi sconti, uno cosa può opporre? E uno ricorda che, per esempio, Giampaolino compra dalla fondazione la casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. La casa di musicista Giuseppe Verdi è stata coinvolta, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, nel 2011-2012 in una lunga polemica in cui si parlava proprio della gestione opaca degli immobili. Lo stesso presidente denunciò una situazione opaca al comune di Milano. Allora, a me che il presidente della Corte dei Conti, che è colui che deve controllare tutto, compri una casa con lo sconto da una fondazione che poi viene accusata di gestione opaca, a me sinceramente dà un po' piace. Fastidio, ma dà un è po' tutto fastidio. Legale, no, è tutto, ma, legittimo, no, no, certo, è tutto certo. Perfetto, però ecco, se quando Giampaolino tutti gli anni, tutti i mesi, tutti i giorni ci viene a fare la predica sulla trasparenza, sulla necessità di essere corretti, eccetera, a me sinceramente quelle parole sono da un po' fastidio. C'è anche il capitolo, diciamo subito, su un'altra grande, potente casta italiana, quella dei giornalisti, ma quindi non abbiate dubbi, ci sono anche giornalisti che hanno comprato con grandi sconti. Però, facciamo così, Mario Giordano, il traffico, poi parliamo anche della persona di cui si parla moltissimo adesso come tra i più gettonati candidati per l'incarico a Presidente del Consiglio, vale a dire Giuliano Amato, anche lui c'è con la sua bella casa, le sue belle case, e poi devo fare ascoltare anche che cosa ha detto Giuliano Amato. Abbiamo scovato una cosa nella rete di qualche tempo fa che insomma è un po' curiosa. Allora, tra l'altro siamo con Mario Giordano, autore del libro Tutti a casa. Giordano, c'è un ascoltatore via SMS che dice: ma posso leggerlo anch'io che sono calzolaio o bisogna essere un geometra per leggere? No, è tutto molto semplice, anche se effettivamente i calcoli della casa, insomma, ci si può perdere tra rogiti e cose, ma non è per nulla tecnico, cioè è capibilissimo. No, assolutamente, abbiamo semplificato tutto anche con tabelle evidenti. Ai calzolai, poi guardi, ascoltatore, se lo capisco io lo può capire anche lei. se l'ho capito io può capirlo anche lei, caro Mauro calzolaio. Allora, Giuliano Amato. Qui Giuliano Amato, guarda Mario Giordano, che ieri si è abbastanza stizzito, perché all'ennesima domanda sulla pensione, 31.000 euro lordi al mese, ha perso la pazienza e a una giornalista ha detto: basta, io guadagno 11.500 euro netti al mese, poi c'è il vitalizio, ma io quello lo do in beneficenza, quindi la mia pensione non è per nulla bassa, ma è 11.500 euro netti al mese. Piantiamola di dare cifre. Ha detto così, piantiamola. Sono giuste, nel senso che sono 31.000 euro al mese. Lordi. Lui parla di 11.000 netti, esatto, sì. Lordi. Lui parla di 11.000 netti che sono la sua pensione INPDAP da ex professore universitario. Sono 22.000 euro lordi, che sono all'incirca 11.000, qualcosa dopo il contributo di solidarietà, erano prima 12.000, adesso sono diventati 11.000 euro netti. Quindi sono 22.000 euro come professore universitario che guadagna, aperta parentesi, 22.000 euro di pensione, è tantissimo, Io non ne conosco pochissimi che lo prendono stipendi, ma va bene. Poi somma i 9.000, quindi 9.000 più 22.000. Sì, però lui dice: io li do in beneficenza. Allora, lo Stato li paga, certo, lo Stato noi li paghiamo. Lo Stato li paga, certo, poi uno sì. Le può fare quel che vuole. A parte che io a questo punto ho sfidato stamattina sul Libero e voglio, ad a questo punto insisterò, io voglio vedere le ricevute, visto che lui la usa come cosa, a questo punto. La beneficenza, vuoi sapere a chi le dà? A chi le dà, perché c'era un mio collega che diceva: io faccio pubblicità, poi do il ricavato in beneficenza, e pagava la retta all'ostizio della vecchia zia. Vabbè, che è sempre una beneficenza, no, a un ente di beneficenza, forse. Ho capito, ma voglio vedere dove vanno in beneficenza. Ma poi non è quello il punto, a me di cosa faccia Amato con i suoi soldi. Il problema è se è giusto un sistema che consente a una persona di cumulare un vitalizio di 9.000 euro più una pensione di 22.000 euro che arriva a 31.000 euro a una persona. Però un po' c'è accanimento, perché effettivamente lui dice: io il vitalizio non è che lui da solo può rinunciarvi, perché non è rinunciabile, cioè, o fate effettivamente, qua è un po' in un vicolo cieco, cioè o si fa una riforma per cui lo si toglie a tutti, ma non è che Amato può dire io rinuncio al vitalizio. Come tu ben sai, io ho scritto il prima delle sanguisughe del mattone, cioè Tutti a casa, ho scritto il sanguisughe del pensione, io sono convinto che il vitalizio vada tolto a tutti quelli che non hanno per io, cioè noi paghiamo ancora il vitalizio a quel famoso onorevole parlamentare che è stato in Parlamento un giorno, sì. E continuiamo a dargli 3.108 euro. Così come a Toni Negri anche, no? Il primo nome che mi è venuto in mente, non so perché. Allora, abbiamo come dire cambiato, per fortuna, grazie alle denunce, si è cambiato il vitalizio di qui in avanti, quindi i futuri parlamentari non succederanno più cose di questo genere, ma resta tutto progresso. Per me non esistono diritti acquisiti quando i diritti acquisiti sono la pensione per un giorno, sono soprattutto quando i diritti acquisiti tipo sugli esodati notte tempo vengono cambiati. Comunque voglio far ascoltare questo a Giuliano Amato. Qualche tempo fa ha detto che ci sono tanti file su Radio 24, anche .it, sul sito internet nostro trovate un Amateide, trovate insomma dei file anche passati, come quando 10 anni fa ha detto voglio fare il nonno, lo disse proprio a Radio 24. Ma sentiamo di recente a una conferenza Amato sui giovani, direttore, ascolta bene, Amato sui giovani e il lavoro. Si è diffusa da noi, e questa è una caratteristica molto italiana, la attitudine, specie tra voi giovani, a lavorare quel tanto che basta, a fare quel tanto di reddito che mi basta e mi garantisce che poi faccio il mio weekend e ho la possibilità di pagarmelo, pagare la moto, eccetera, che è tipico del tassinaro romano, che lei a una certa dice no signore, no io vado a casa ora, dice ma come va a casa, porti prima a casa me, no io ho fatto abbastanza, arrivederla. Vabbè, e la lascia lì. Hai capito, fancazzisti questi giovani, fancazzisti, lavorate solo il tanto che basta per il weekend, la moto, è come i tassinari di Roma. Non so se è in quella stessa circostanza in cui per ribadire il tema della pensione dice anche i giovani e voi la pensione non ce l'avrete mai. No, quell'audio io l'ho cercato, mamma mia, non riusciamo a trovarlo perché Amato non dà l'autorizzazione a divulgarlo, è l'unico che ne è in possesso, la sua fondazione ha detto ai giovani, alla Luis di recente a Roma, molti di voi non riceveranno neanche la pensione, sarete costretti a vivere nelle macchine, ma come Amato, ma come si può dire una cosa del genere se l'ha detta, perché a questo punto ci vuole l'audio. Ovviamente anche lui ha la sua bella casa, per carità, è tutto. Ovviamente anche lui ha la sua bella casa, lui però finisce nel mio libro soprattutto per la casa della moglie, che è intestata alla moglie Diana Vincenzi, 11 va un attico, 11 va anni sulla Nomentana, comprato per 620.000 euro da una società in liquidazione. Il valore è stimato è di oltre 1.109.000, quindi uno sconto del 45%. Vabbè, anche lui. Allora, buona lettura, anche se nella premessa giustamente Mario Giordano scrive munitevi anche di un Alka-Seltzer prima di leggere, perché magari potrebbe fare qualche effetto un po' fastidioso. Però, direttore, voglio concludere con questo. Io ieri, quando ho visto Enrico Letta uscire dopo le consultazioni, visto che è un altro nome papabile per il Palazzo Chigi, ha detto questo Enrico Letta, Scelte che in tempi certi cambino la Costituzione, riducano il numero dei parlamentari, aboliscano le province, creino un Senato. L'abolizione delle province! Quando l'ho sentita, direttore Giordano, volevo spaccare la televisione, giuro, volevo spaccare la TV, e ovviamente quindi mi ritrovavo anche con la TV da ricomprare, volevo frantumarla in 50 pezzi. Bisogna fare ragione. Presto però, l'abolizione delle province. Posso dire una cosa più o meno seria? Sì. Non che quelle che abbiamo detto fino adesso non siano serie, ma. Cioè, e non che quelle di Letta non siano serie. E neanche il problema è che a forza di sentire ripetere promesse vane, l'effetto io credo sia poi quello un po' di dire della stanchezza, no? L'abbiamo sentito, ma cosa serve? Io continuo ad essere convinto che nascondere la testa sotto la sabbia e far finta di niente di fronte alle promesse mancate sia l'atteggiamento peggiore, e che quindi occorra anche farsi venire ancora un po' di mal di fegato, proprio per non lasciare vinta a quelli del qualunquismo generico, cioè del tutto sbagliato. Ci sono delle cose che si possono fare, che si possono cambiare, bisogna conoscere, approfondirle ed essere come dire molto puntuali e molto seri, non lasciarne passare una, per fare poi quello che ha chiesto Napolitano l'altro giorno in Parlamento. Sì, cioè, sì. Questa è l'ultima chance, è l'ultima occasione. Io non so poi quale Napolitano salverà ancora questo paese fra. Quindi o si cambia, ma per cambiare bisogna essere puntuali, non l'abolizione generica delle province, ma forse qualcosa di un po' più puntuale. Se posso permettermi l'ultimo veleno, un po' più puntuale anche del documento dei saggi, di cui non è che io sia molto entusiasta. Vabbè, i saggi, abbiamo visto anche quello. Comunque, io ringrazio Mario Giordano, direttore di TGCom24, tutti a casa, lo trovate ovviamente in libreria, edito da Mondadori. C'è da dire che Amato in questa dichiarazione, molti dicono, ma ha ragione, Amato ha perfettamente fotografato la realtà, molti dei giovani sono così, non voglio, lavorano tanto che basta, e poi comunque insomma ha fatto arrabbiare qualche giovane, forse sicuramente ha fatto arrabbiare qualche tassinaro a Roma, qualche tassista che subito scrive io lavoro anche fuori turno, altro che fine corsa, non lavoro più. Vabbè, comunque noi domani siamo in onda, anche perché c'è da parlare di un governo che arriva, siamo in onda regolarmente il 25 aprile, ci troviamo domattina alle 6:30 puntuale, razza di debosciati che non siete altro, svegliatevi. Io non lo so, Alino, sai cosa? Adesso scrivo una lettera solo per lamentarmi della tua trasmissione. Scrivo Squinzi, io scrivo Squinzi. Va bene, va bene. No, sei un ciocca piatti. Poi lo scrivo Squinzi. 24 mattino.